metti le tue mani sopra di me. Tutto il weekend, noi due, incollati come puzzle coi vestiti sopra perché e sopra di te sono le due. Con le luci spente, con le mani sulla faccia, in camera c'è da reti. Voglio le tue mani, voglio che mi chiami solo il weekend, solo il weekend. Possiamo dimenticarci di tutte quante le colpe, sbogliami di tutti, forse stanotte non dormo. E tu cercami con una scusa prima di andartene via, lasciami il cuore sul letto e per tempo. Parliamo latino americano, se mi baci io dopo ti amo, lingue diverse tanto ci capiamo e poi lo facciamo di nuovo. Tanto tuo fa l'americano, mi dice love you, mica ti amo, lingue diverse tanto ci capiamo e poi lo facciamo di nuovo. Di nuovo. Di nuovo che mi manchi quando mi miri e spari. Facciamo le origami quando restiamo incastrati. Se ci amiamo per un attimo e dopo siamo strani. Parole indecifrabili come gli illuminati. Scusa, devo andare via, via, via, via. Io non so restare da sempre, non sono brava, è colpa tua, ma non mia, se non mi hai ancora dimenticata. Di nuovo. Parliamo latinoamericano, se mi baci io dopo ti amo. Lingue diverse tanto ci capiamo e poi lo facciamo di nuovo. Tanto tu fa l'americano, mi dice love you, mica ti amo.